Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Rafa Benitez non è più l'allenatore dell'Inter. Beh, non era da qualche giorno in realtà, ma insomma adesso è arrivata la risoluzione contrattuale, è arrivata circa un'ora fa, poco più. 3 milioni di euro, si legge sul lancio d'agenzia. Questa è la cifra sulla quale, secondo quanto ha preso l'ANSA, è stato raggiunto l'accordo economico tra Rafa Benitez e l'Inter per arrivare a una separazione consensuale. Dopo 2 giorni di trattative si è così giunti a una soluzione equa per entrambe le parti. Io dico che 3 milioni sono pochini, secondo me. Secondo me, considerato anche certi precedenti, Vieri, io credo qualcosina di più abbondante ci sia per Rafa Benitez. Non è ancora altrettanto ufficiale l'arrivo di Leonardo, ma è ormai non meno scontato, direi, dell'addio, di quanto non fosse l'addio di Benitez. A meno di non credere e di prendere per buone le parole dirette interessati. Per esempio, abbiamo un frammento moratiano di ieri, mi pare. No, non c'è stata nessuna riunione a Fiume, io avevo altre cose da fare e le altre persone sono incontrate fra di loro, quindi io non avevo riunione a Fiume. Benitez è ancora allenatore dell'Inter? Sì, infatti, sì, per quello in questo momento qui è allenatore dell'Inter, insomma. Non ho preso contatto con la società, non ho preso contatto con nessun allenatore. Anche questo pranzo con Leonardo? Stasera, stasera. No, qualche mese fa. Ma lo scherziamo. Non scherziamo, ma secondo me non scherzava nemmeno Leonardo. Lo scorso, direi, 15 maggio, Franco Piantanila ha trovato questo frammento risalente appunto a poco dopo il suo addio al Milan. Davvero non lo so, non c'ho niente, ci ho mai parlato con nessuno, non ci ho mai parlato di possibilità future, niente, solo so soltanto che ho vissuto un'esperienza da allenatore che credo che nei prossimi anni non lo farò. Nei prossimi anni non lo farò. L'importante è sempre, ma per carità, in tutto questo non c'è nulla di colpevole, sia ben chiaro, è un divertissement natalizio, anche per superare il magone di stamane al funerale di Enzo Bearzot. È soltanto che, insomma, proprio ricordando Enzo Bearzot, diciamo che il calcio di oggi non va preso sul serio, no? Va preso con quel tanto di beneficio all'inventario, ripeto, in cui non c'è nulla di male, ma cui le parole vanno e vengono, e più spesso vanno e meno frequentemente vengono. Bentornato a Fabio Tavelli, buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno. Non vorrei dissacrare, ma quando sento anche su Radio 24 quel parlamentare che dice che le parole nella politica valgono giusto il tempo della pronuncia e appena finita la frase già non valgono più, io trovo che anche nel calcio sia abbastanza così, insomma. Sì, certo. Stia prendendo la parte brutta anche della politica e ormai valga davvero tutto, per cui davvero quello che è stato detto ieri vale veramente fino a ieri. Senti, c'è un messaggio interessante che leggo, interessante, che è molto in sintonia con questo. Antonella scrive da Catania: vorrei farvi i miei più affettuosi auguri di Natale. Come interista, avendo trovato Leonardo sotto l'albero, aggiunge, in quanto interista e in quanto donna, un Leonardo sotto l'albero, tutto sommato, sa com'è, non la prendo così male e lo credo bene, perché al di là del valore tecnico, diciamo che l'involucro non si discute. Senti, dove va? Dato che noi l'appuntamento con il ministro degli esteri è ovvio che riguarda innanzitutto appunto quello che accade fuori confine, anche se non soltanto, dove può andare Benitez a parer tuo a questo punto? Ma guarda, Oxon teme fortissimamente che lui stia per tornare a Liverpool. Intanto perché comunque ha iscritto sua figlia a una scuola di Liverpool già qualche giorno fa, e quindi è evidente che vuol tornare a vivere lì, almeno per l'anno scolastico della ragazza. Il sospetto nasce dal fatto che comunque i tifosi, tutti i vari siti, blog e quant'altro dei tifosi vicini ai Reds stanno intonando la gran cassa. E ti dirò, ti interrompo solo un istante, il sospetto lo rafforza lo stesso Oxon con una dichiarazione battuta un minuto fa, davvero, in cui dice: mi meraviglierei molto di un ritorno di Benitez, perché vorrebbe dire che la società si è sbagliata a luglio. Devo dire che a me meraviglia tantissimo già il fatto che Leonardo vada ad allenare l'Inter, se andrà, e mi meraviglierebbe altrettanto che Rafa Benitez riprendesse la guida del Liverpool, perché comunque la situazione, non è che si erano lasciati proprio, no, restituendosi i regali di nozze, per cui Io ripeto, mi stupirei moltissimo, e tra l'altro Oxon non sta facendo un pessimo lavoro, perché il Liverpool, con le forze che ha, intanto è passato in Europa League da primo nel suo girone, è riuscito ad entrare abbastanza stabilmente nella parte sinistra della classifica, quando io per primo, ma anche tanti altri, non pensavano che questa cosa potesse accadere. Una volta che ha recuperato prima Gerrard, poi un po' di Torres e quant'altro, la squadra si è discretamente rimessa in carreggiata, non da arrivare da nessuna parte, intendiamoci, è un'annata di transizione, però Oxon non è stato preso per vincere il titolo, è stato preso per gestire un momento nel quale le difficoltà finanziarie del club erano tali, anche perché Benitez aveva speso moltissimo, perché Benitez ha speso tantissimo nella sua gestione manageriale a Liverpool, era necessario il buon padre di famiglia, e comunque un buon allenatore, perché Oxon in Premier League ha fatto veramente bene, prima al Fulham e comunque non male adesso a Liverpool, e quindi serviva lui, e quindi ripeto, anch'io mi stupirei moltissimo, certo non quanto Oxon, ma un pochino anch'io. Posso farti un'imboscata natalizia? Prego, prego. Prego lo dici dopo. Ah, vabbè. Prego lo dici dopo, perché vorrei che ci parlassi molto brevemente della mia Sudafrica. Ah, questo è un colpo abbastanza. Certo, infatti spiego agli ascoltatori perché. La mia Sudafrica è il libro che Fabio Tavelli ha assemblato, diciamo così, sulla base di una serie di articoli, di corrispondenze scritte in Sudafrica durante il Mondiale, poi diventate un libro di sua stessa produzione che girando l'Italia ha già presentato da molte parti, che sta avendo un buon successo e di cui Fabio Tavelli non vuole assolutamente che si parli alla radio, perché avendo imparato da me la separazione, diciamo, delle carriere, mettiamola così, e per cui dopo aver tentato varie volte nelle nostre telefonate di accordi sugli argomenti, di inserirgli questa, ho deciso che per Natale la cosa diventava l'imperio. Quindi hai un minuto per spiegarci come fanno, arrossendo magari, come fanno, visto che è acquistabile solo via internet, come fanno i tuoi aficionados a trovare questo libro. Guarda Gigi, questa è una trappola della quale tenterò una vendetta in futuro, ma no, quindi a malincuore ne parlo, ma nel senso che sono riuscito a difendermi e non parlarne per Sky, speravo di farlo anche qui, non ce l'ho fatta. E comunque no, c'è un sito internet che ha l'indirizzo che si chiama www.lacompagniamassetti.it, è il sito di un editore bresciano che ha curato l'editing, l'impaginazione, la stampa e ha, diciamo così, creato una bella copertina, onestamente, la compagnia Massetti.it, lì si può acquistare con carta di credito tranquillamente. Devo dire che, qui a sto punto mi prendo gli ultimi 20 secondi, che il vero la vera soddisfazione mia di questo periodo è le veramente centinaia di persone che me lo stanno chiedendo attraverso Facebook o attraverso la posta elettronica, e che mi hanno chiesto di farselo spedire con dedica direttamente da tra virgolette autore, e io devo dire che tutte le mattine ormai da 20 giorni a questa parte mi reco all'ufficio postale di Mirabello a Pavia a mandare pacchi di libri. La cosa mi fa molto piacere, e le persone che lo ricevono mi hanno tributato una discreta soddisfazione. E allora, visto che ci sta ascoltando più di qualche centinaio di persone, perché l'antivigilia di Natale non semplificare la vita e in questo caso l'acquisto a chi ci sta ascoltando, a chi ti segue, a chi ti manda gli auguri con altrettanto calore che a lei, gli auguri a Fabio Tavelli con altrettanto calore che a lei, scrive Alessandro Fabri da Monza. È molto bello questo, è molto naturale, e soprattutto si è capito benissimo che non c'era davvero nulla ricombinato, e so già che questa prima o poi la pagherò. Fabio, facciamo il primo intervallo di oggi, strade e autostrade. Faccio una breve parentesi rispetto al collegamento con Fabio Tavelli, perché molto mi intriga, e poi sentirò la tua opinione Fabio, molto mi intriga questo messaggio di Max da Udine. Nel calcio comunque, che si ricollega a Leonardo e alla gag iniziale, esistono ancora molti allenatori per bene, Prandelli, Reia, Del Neri, Marino eccetera, ma io di nomi di allenatori per bene ne aggiungerei ancora parecchi altri, se è soltanto per quello. Però Io avevo un debole, e l'ho tuttora, secondo me anche sul piano tecnico, ma certamente sul piano comportamentale, per Rafa Benitez, e vi leggo il saluto di Rafa Benitez apparso, raccolto dall'ANSA di pochi minuti fa. Voglio ringraziare tutti per l'appoggio ricevuto durante la mia esperienza all'Inter. Voglio ringraziare personalmente, anche a nome dei miei collaboratori, i calciatori, i dipendenti della club e i tifosi che hanno avuto fiducia in noi. I due titoli conquistati sono stati il risultato dell'impegno di tutti quelli che sono stati al nostro fianco, mantenendo sempre come fondamentali principi la professionalità, l'educazione, il rispetto e la dedizione al club. A prescindere dalla naturale tristezza che c'è quando si lascia un grande club come l'Inter, andiamo via portando con noi l'allegria del ricordo dei tifosi che ci hanno accolto dopo la vittoria del mondiale per club. È mio desiderio salutare inoltre i calciatori, lo staff e i collaboratori che a causa delle festività non potrò fare personalmente nei prossimi giorni. A tutti loro, così come al club e ai tifosi, auguro i massimi successi sportivi per il futuro ed infine doveroso da parte mia un ringraziamento al presidente Massimo Moratti per avermi a suo tempo scelto come allenatore dell'Inter. Chapeau si dice in Francia, no Fabio? In questi assolutamente casi. Sì, sì. Perché solitamente i comunicati di addio sono quanto di più ipocrita c'è, soprattutto quelli che stilano le società. Io adesso non ho ancora letto quello dell'Inter e non voglio dire che quello dell'Inter sarà così, però solitamente quando si esonera un allenatore le frasi sono sempre quelle di circostanza. Questa era molto argomentata, io che non l'avevo letta stavo aspettando di vedere se arrivasse anche il ringraziamento e il saluto a Moratti, è arrivato alla fine ed è stato un bel messaggio, ma d'altronde sai, Benitez da questo punto di vista non ha né deluso né tradito, cioè ci aspettavamo un signore arrivato, chi lo conosceva già per esperienza internazionale o chi l'ha conosciuto in questi mesi, diciamo che ha portato uno scatto di diversità nei confronti di chi l'ha preceduto in tutti i sensi, sia nel senso tecnico che nel senso comportamentale. Dal punto di vista tecnico evidentemente Mourinho viene molto rimpianto, perché comunque è un allenatore che ha segnato un'epoca nerazzurra e l'ha segnata con la sua personalità. Da un punto di vista comportamentale, certo, io ho spesso sentito molti colleghi lamentarsi del fatto di tornare da una conferenza stampa di Benitez senza avere il titolo in mano. Però posso anche dirti questo, Gigi, che insomma i titoli li dobbiamo fare noi giornalisti, anche se li regalano sempre se ce li regalano sempre gli allenatori, allora la vita è un po' troppo comoda. E poi un po' ciascuno, mi pare che per esempio a Madrid adesso i titoli ne abbiamo da vendere, no? In attesa dei titoli, per il momento i titoli ce l'hanno, mi sembra. Sì, ma e non sono felicissimi come club e come stampa madrilena, mi pare di aver capito. No, il club certamente no, perché era abituato a un altro tipo di gestione, però effettivamente bisogna anche dire questo, che finché a calcio conterà chi vince, cioè chi fa un punto più degli altri o chi alza la coppa alla fine di una finale, finché conterà questo certamente José Mourinho sarà il numero uno al mondo, perché effettivamente è così. Credo che un certo tipo di imbarazzo ci sia soprattutto in Jorge Valdano quando Mourinho si lancia in queste intemerate con tanto di foglietto, che secondo me neanche tanto gli rende onore, perché sembra proprio davvero lo Zamparini di turno che si mette a fare l'elenco dei torti piuttosto che qualche giornale che io chiamo di regime calcistico, quando rifà la classifica e dice ecco, senza errori arbitrali la nostra squadra, perché poi la nostra squadra avrebbe 12 punti in più. Sì. Cioè siamo a livelli secondo me troppo bassi per il Real Madrid e chi ha alzato la Coppa dei Campioni. Sono cose che a Real Madrid non si sono mai immaginate, nemmeno udite, e infatti questo sarà un problema di gestione, di rapporti nei prossimi mesi a Madrid, ma non siamo noi qua no, a dirlo, sono i madrileni e i madridisti in particolare a rilevarlo in maniera sempre crescente. Perdonami, io già ti anticipo, perché adesso ti arriveranno 10 messaggi dicendo vedrete che Mourinho vince la Liga o vince la Champions League e tutti se lo dimenticheranno, e anche questo è vero, perché Mourinho certamente qualcosa vincerà e siccome il Real Madrid nell'ultimo periodo di titoli non ne ha avuti tantissimo, vedrete che ci si dimenticherà abbastanza presto anche di queste sfuriate. A parte i messaggi misteriosi che stanno arrivando su questa vendetta minacciata, l'ho scritto io già, durante Via Libera. Certo, ma questo è, no, ma ce ne sono anche un altro paio, tra l'altro. Ah, no, io sono uno. No, senti Fabio, e allora io ricordo un'altra volta che il titolo del libro è La mia Sudafrica, diciamo così, ed è soprattutto, e la parte migliore a parer mio di questo libro non è tanto nel resoconto dell'avventura strettamente calcistica o giornalistica di laggiù, ma è quello che riguarda Soweto, sono tutti risvolti, è il tentativo di provare a vivere una realtà così lontana e di descriverla e raccontarla con la massima naturalezza, spontaneità, oltre che verità. Parentesi chiusa, adesso torniamo seri perché vorrei chiederti, io ho letto delle dichiarazioni molto belle di Platini sul conto di Berzot per esempio, ma non ho una, anche non avendone avuto il tempo in questi giorni, poi mi piacerebbe farlo, una rassegna stampa estera o mondiale significativa in sintesi di come il resto del mondo ha accolto la notizia della scomparsa del Vecio. Allora Gigi, la stampa che ha scritto di più, ma soprattutto che ha cercato proprio di fare un racconto, la premessa è questa: Berzotto è un uomo pre-internet, quindi è un uomo pre-rete ed è un uomo pre molte altre cose, e soprattutto è stato un uomo che nel momento in cui ha deciso di uscire dal palcoscenico non c'è più tornato, quindi non ha fatto l'opinionista, non ha fatto tutte quelle cose delle certo. quali si trova traccia in rete. Questo certo. è molto importante come premessa, perché quando ci si trova a scrivere o a dover scrivere di un personaggio molto antecedente anagraficamente, la prima cosa che si va su Google e si cercano delle notizie, si cercano dei video. Tutto questo ha un po' messo in difficoltà la stampa internazionale, che ha fatto un po' fatica a reperire grande materiale su Berzotto. Devo dirti che soprattutto in Spagna, dove hanno un ricordo evidentemente molto vivo del mondiale vinto da Berzotto, e in Sud America, soprattutto in Argentina, dove Berzotto ha disputato un altro grandissimo mondiale, i ricordi sono stati i più completi, nel senso che sono andati oltre il racconto della sua carriera. Cioè, mentre i siti, soprattutto i giornali di stampo anglosassone, hanno soprattutto tratteggiato la carriera come può fare Wikipedia, cioè come può fare un'enciclopedia, certo. riportando soprattutto le dichiarazioni poi dei suoi ragazzi dell'82, in questo devo dirti che ho trovato notizie di Berzotto ovunque, cioè dal Boston Globe, ad esempio, i giornali di Chicago, i giornali di Los Angeles, cioè tutti i giornali, i grandi giornali del mondo, nella loro versione online hanno riportato articoli su Berzotto, e quasi tutti hanno scelto o la foto del gruppo di Madrid al Bernabeu con i giocatori che portano in trionfo Berzotto con questa giacca bianca davvero meravigliosa. Pensa, scusami, ti faccio un inciso un attimo, che è conservata al Museo Ricoverciano, certo. perché visitandolo l'estate scorsa ho trovato dalle scarpe di Meazza in giù, insomma, perché è un museo della storia del calcio italiano, ma già allora, sapendo che benissimo non stava, mi aveva molto, molto colpito questa giacchetta bianca a righine azzurre, che poi in questi giorni abbiamo ripassato, no? insieme alla pipa e tutto il resto, appesa a una gruccia all'interno del Museo Ricoverciano. Chiusa la parentesi. E devo dire, l'altra foto più utilizzata è quella della mitica partita a carte in aereo con Pertini, Zoffa e Causio. Certo. Foto che è entrata talmente nell'immaginario che io il primo giorno ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere il barone Causio, non gli ho chiesto altro che di raccontarmi di quella partita e di tutto il resto, nel senso che è veramente un'istantanea che per chi ha vissuto davvero quel mondiale non può essere dimenticata. E quindi ripeto, soprattutto gli spagnoli e gli argentini hanno scritto di più, ricordando anche il carattere ombroso, il carattere, se vogliamo, testardo, tutti gli scontri avuti anche in conferenza stampa. Molti giornali spagnoli hanno ricordato anche il silenzio stampa di Spagna 82, e però devo dirti è stato veramente piacevole trovare e far fatica a trovare siti poi in italiano quando la ricerca è diventata internazionale, proprio perché erano davvero tantissime le testimonianze di questa notizia che ha fatto il giro del mondo, come è doveroso e giusto che sia. A parte il fatto che ha appena telefonato il pastore di Frosinone per fare a tutti noi gli auguri di Natale dei leggendari, e poi ma non so grande. Se tu hai mai intercettato il pastore come di Frosinone, no, ma ti pare che io me lo sia perso, ecco, è un idolo assoluto, leggenda vera. Vorrebbe che gli regalassimo noi qualcosa. Sì, ma questo presto accadrà, perché penso che io ho delle mail di ascoltatori che sono offerti di guidarmi loro, di portarmi loro sulle colline o montagne del Frusinate, poi si tratta di informarsi esattamente sul sito per andare dalla primavera in avanti, per andare a trovare il nostro amico pastore, che salutiamo e abbracciamo per Natale. Fabio, vediamo se riusciamo a star dentro un paio di minuti, e se no ti chiederò scusa e tracimeremo. Ci fai un quadro del calendario internazionale di questi giorni? Allora, molto volentieri, mi tolgo subito il pensiero della Bundesliga, che riparte venerdì 14, tra l'altro con un partitone che è Bayer Leverkusen Borussia Dortmund, sì. cioè la prima contro la terza, anche se è seconda pari merito. Il Bayer di Monaco gioca il 15 contro il Wolfsburg, classifica Borussia Dortmund 43, Mainz e Leverkusen 33, Bayer Monaco 29. La Ligue 1 si prende una bella pausa e torna nel weekend 15-16 di gennaio, lì con la solita classifica rimescolata, la guida il Lille davanti al Paris Saint-Germain. Quello che più ci interessa è sotto Natale e Capodanno. Vado di Premier League e vi dico che il 26, cioè il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, domenica, c'è Manchester United contro Sunderland e Newcastle contro Manchester City. Si comincia alle 13, ora italiana, con Fulham West Ham e c'è anche Aston Villa Tottenham. Da non perdere, secondo me, per nessun motivo al mondo, il 27 alle 21, ora italiana, Arsenal-Chelsea. È la ciliegina, diciamo che è lo zucchero filato sul pandoro di questo periodo. Si gioca anche il 28, gioca il Manchester United contro il Birmingham City a St. Andrews. Il 29 c'è il Chelsea contro il Bolton, l'Arsenal contro il Wigan e il Liverpool contro il Wolverhampton. Si gioca praticamente tutti i giorni, perché si salta il 30 e il 31, ma l'1 gennaio, quindi il primo giorno dell'anno, 13:45 West Bromwich Albion Manchester United, quindi insomma, per chi fa tardi e mette la sveglia all'1, all'1:30, una colazione e poi la partita. C'è anche l'Arsenal alle 18:30, si gioca anche il 2 Chelsea Aston Villa e poi si gioca 3, 4 e 5. Non si gioca il 6, poi quel weekend lì è dedicato all'FA Cup. Di fatto, tranne il 30 e il 31, si gioca tutti i giorni dal 26 in poi. Non mi sembra malissimo. No, non mi sembra malissimo. In Spagna, e questa è davvero l'ultima cosa, ho letto almeno stamane sulla Gazzetta, c'è addirittura, minacciato, perché poi insomma, c'è un rischio sciopero del sindacato per la Liga del 2 gennaio, nel senso che l'AFE, e quindi l'equivalente della nostra ICI, è pronta a scendere in campo il 2 gennaio per protestare contro gli orari fissati dalla Lega. E ha dato la propria disponibilità a giocare soltanto alle 17, un orario che però non consentirebbe la programmazione televisiva del 2 e il 3 gennaio. Il 2 doveva essere un giorno di vacanza, secondo l'accordo collettivo. Il fatto, insomma, la spalmatura in pratica li ha fatti arrabbiare e quindi, almeno teoricamente, al momento, questi incontri in realtà sono in forse. Sì, sono subiudici, cioè, secondo me è un po' tardi per accorgersene. Credo anch'io. Potevano farlo un po' prima. Certo, più arriviamo vicini, più la loro forza contrattuale aumenta, sale, anche perché certo. il 2 e il 3 sono tipo, non so, Getafe Real Madrid gioca alle 22, che è un orario per gli spagnoli fantastico dal punto di vista poi serale. Barça Levante si gioca il 2 però, e secondo me gli spagnoli fanno bene comunque a giocare adesso, magari il 2 è un po' complesso, anche poi è un po' più da inglesi, si poteva forse giocare più vicini a Natale. In ogni caso è comunque un passo avanti, non dico per arrivare a come fanno gli inglesi, perché gli inglesi sono pazzi da questo punto di vista, perché poi giocando ogni due giorni, ogni tre giorni, la qualità fatalmente scema. Però insomma il 2 e il 3 loro hanno in calendario queste partite, si ricomincia poi con la cadenza normale l'8 e il 9, il Barça gioca a Riazor contro il Deportivo e il Real Madrid gioca in casa col Villarreal. Partita, secondo me, quella da tenere molto, con grande attenzione. Molto, ma molto presente. Allora, sto per dare la linea alla borsa, scusandomi sin da ora con loro. L'ultimissima, molto veloce, è questa. Oggi c'è stata questa piccola imboscata a Fabio Tavelli. Direi, Fabio, che per andare pari e per cercare di evitarmi la vendetta, col nuovo anno lanciamo subito una tua proposta di cui mi hai parlato qualche tempo fa e che sinceramente trovo una proposta tra l'intelligente e il geniale addirittura. Andiamo pari, pace? Ma vuoi che però non l'anticipo, perché No, pace, solo per incuriosire gli ascoltatori. Molto bene, con tanti ringraziamenti, con perdon della Damas e tanti auguri. E gli auguri più affettuosi. Grazie a Fabio Tavelli. A ciao, a presto, e noi andiamo davvero finalmente ai mercati. Un potpourri vi propongo ora di argomenti introdotti dalle voci dei protagonisti. Allora, l'arbitro Rocchi, per esempio, parla dell'annata arbitrale in genere giudicandola positiva. Gli arbitri non parlano mai, io direi di dargli la precedenza assoluta. L'annata degli arbitri è un'annata, credo, positiva, anzi sono sicuro che sia stata positiva, molto innovativa. Siamo giovani, c'è un gruppo molto giovane, se uno guarda la media delle gare di Serie A dirette dal gruppo è chiaramente un pelo carente dal punto di vista dell'esperienza, però ragazzi molto volenterosi, bravi, puliti, con la faccia pulita, che credo che stiano facendo tanto per dare un ottimo servizio. Poi dopo è chiaro, l'errore è inevitabile, lo faremo sempre. Insomma, diciamo che questa dichiarazione, insomma, questo intervento raccolto da Sky aveva questo sottofondo natalizio. A proposito di sfondi natalizi o di condimenti natalizi, Alessandro La Modena fa giustamente notare Tavelli è proprio bravo, ma lo zucchero filato sul panettone non mi sembra una grande idea, al massimo lo zucchero a velo. Beh, immagino che Fabio quello volesse suggerire, o comunque di quello volesse parlare, e lei è stato bravo a cogliere questa cosa che sinceramente sia lui parlando che a me ascoltando era sfuggita. Adriano resta alla Roma a patto di giocare, nel frattempo però è partito per il Brasile, e voi sapete che quando Adriano, e non solo lui ma soprattutto Adriano, quando parte poi bisogna magari avere anche pazienza per il ritorno. Staremo a vedere stavolta. Adriano: è stata una conversazione tra di me e la presidente, abbiamo parlato tantissimo perché ero veramente un po' triste perché non giocavo, stavo aspettando la mia opportunità di giocare. Ho pensato veramente di poter tornare in Brasile, però ho visto che la presidente ci tiene tantissimo, quindi sono riuscito a rimanere, e quindi sono felice perché l'ultima partita che ho giocato, e quindi è quello che volevo. Spero che possa avere un po' più di opportunità di giocare per aiutare la mia squadra. Beh, insomma, comunque rispetto alle prime uscite, l'Adriano dell'ultima partita, quella giocata a San Siro contro il Milan, pur senza cose trascendentali, era comunque l'Adriano presentabile, quindi è chiaro che se andasse avanti di questo passo potrebbe essere un giocatore recuperato. Chris da Castelfranco Veneto scrive: quest'ultimo signore comunicato di Rafa Benitez era stato preceduto da parte interista dall'intervento filosofico di Materazzi. È vero anche questo. Michele da Roma, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, io tempo fa le avevo fatto un appello perché affrontassi uno stage per conduttori radio televisivi, ma mi pare che non mi abbia dato ascolto, purtroppo. No, direi di no, direi. No. Ascolti, no, io volevo dire questo. Purtroppo mi dispiace che non riesco più a seguire, a parte oggi, la sua trasmissione per motivi di lavoro, di orari. Ma c'è il podcast, Michele. Noi glielo dico perché abbiamo un numero crescente. Io non so bene cosa sia il podcast, ma questo rimane tra lei e me. Tra lei e me, la prego che non ci sentano in giro. Però mi dicono quelli pratici che sta aumentando, intanto in maniera molto molto elevata, insomma, l'ascolto in podcast in generale della radio, ma in particolare pare che questo programma sia tra i più scaricati, posso dire? Tra più scaricati il podcast. Mi hanno fatto il segno di sì di là dalla regia, e quindi sono riuscito a dirla giusta. Scusi, vado avanti. Comunque, io le volevo dire questo, intanto che seguivo, insomma, oggi come oggi seguo la sua trasmissione, perché lei tratta il calcio nella maniera che a me piace, cioè come, anche come uno specchio di come è purtroppo la nostra società italiana. E la domanda è questa qui: io anni fa ho visto giocare qualche partita dell'Inter di Mancini e dell'Inter di Mourinho. Dico qualche partita perché per scelta non ho da anni appunto la televisione, sì. E quindi vabbè, mi capita di vedere le partite ogni tanto. Non ho mai visto l'Inter di Benitez. Ora le vorrei chiedere, perché immagino che lei le partite le abbia viste, tecnicamente, qualcuno, secondo lei, sì, che motivo hanno avuto di licenziare la Benitez? La ringrazio molto, le faccio i miei auguri e l'ascolto per radio. Grazie a lei, Michele, e auguri ricambiati. Ma tecnicamente credo che di motivi non ce ne fossero. Tecnicamente, se teniamo conto dell'infortunistica, ecco, mettiamola così, finché l'Inter ha giocato con l'organico al completo, cosa che è durata veramente pochissimo, o comunque con un organico con due o tre assenze già gravi, ma insomma di quelle ancora supportabili, gli interisti, insomma la larga maggioranza degli interisti era convinta e d'accordo che questa squadra giocasse anche meglio dello scorso anno, nel senso che c'era bisogno di meno rabbia, di meno furore, di meno agonismo e di meno nervi sempre allo scoperto, per, al di là dei risultati che comunque arrivavano, per ottenere un prodotto insomma, altrettanto di qualità. Soprattutto, questo ripeto nella prima parte, anche in Coppa, dove la qualificazione, infatti prima del disastro degli ultimi tempi, era maturata proprio con queste partite autorevoli. Poi un po' alla volta tutto è stato travolto inizialmente dal problema degli infortuni, e oggettivamente non si può non far carico anche alla preparazione degli infortuni. Benitez, sapendolo, e sapendo anche che la società aveva scaricato su di lui colpe relative a questo problema, che probabilmente erano almeno da condividere con altri, è il punto su cui ha messo l'accento nella sua conferenza stampa di addio, in pratica, che è stata quella di Abu Dhabi. Poi, nell'addio che ho letto prima, nella dichiarazione, nel saluto che ho letto prima, signorilmente ha glissato. E poi vedremo se questo argomento un giorno o l'altro tornerà fuori. Jonathan, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Scusi, magari speriamo di non essere un po' emozionato, ma spero che mi passi. Senta, io chiamavo per questo argomento qua, e io l'ho sentita prima quando lei parlava dei 3 milioni di buonuscita di Benitez. Ecco, quello che volevo capire, siccome io insomma la seguo spesso, insomma quando mi capita per lavoro comunque la seguo, e non mi sembra mai che lei sia molto tenero nei confronti dell'Inter, cioè come giudizi o come atteggiamenti anche molto, magari molte volte velati. Volevo capire, i 3 milioni che lei prima disse mi sembrano, non so, adesso non mi ricordo bene le parole che ho usato, però mi sembrano un po' pochi come buona uscita, visto ieri in precedenza. Come transazione. Ecco, ma lei sembrano pochi o le sembrano tanti? Ecco, per cui questo volevo capire, signor Garanzini. No, mi sembra che se la cavano con una transazione di 3 milioni di euro, se la cavano bene, cioè l'Inter se la cava molto bene. Conoscendo le tradizioni interiste recenti da questo punto di vista, mi sembra poco, mi sembra che se la cavi seriamente a buon mercato, e quindi ci credo fino a un certo punto. Così, poi può essere che sia vero o che sia no. Sto vedendo dei cenni alla regia, forse c'è un commento di Morata. No. Breaking news. Gigi, c'è un aggiornamento che arriva dalla redazione, purtroppo ancora dalla capitale, dove questa mattina era esplosa un pacco bomba all'interno dell'ambasciata svizzera. Pochi minuti fa un altro pacco è esploso nella sede dell'ambasciata romana del Cile, sempre a Roma, e ci sarebbe anche in questo caso un ferito. Lo ricordiamo, nella capitale c'erano stati anche 2 falsi allarmi, quindi lo ripetiamo, esplosa una bomba all'ambasciata del Cile a Roma proprio poco fa, un ferito. Aggiornamenti in GR24, ti restituisco la linea, Gigi. No, io mi ero illuso che invece ci fosse una dichiarazione nuova di qualcuno, e che questa, non avevo capito i segnali, e che quindi è sempre di calcio, di sport, delle nostre piccole cose si parlasse. Invece se ricominciamo con le bombe, allora non sono, sì, sono piccolissime le bombe come dimensioni, ma stiamo parlando invece di tutt'altro. Proprio da Roma, Francesco, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Anzitutto un saluto al caro Berzot, che mi fece assistere a 9 anni alla prima vittoria dell'Italia ad un mondiale, che non potrò naturalmente dimenticare. Secondo poi su Benitez, io penso che l'Inter veramente abbia perso un'occasione, nel senso che è anche il calcio italiano in fondo che non è riuscito a metabolizzare, o viceversa, non so, questo personaggio incredibilmente signore in un mondo invece molto molto difficile. Ecco, un rammarico tra l'altro di un tifoso juventino, quindi assolutamente spassionato, diciamo. Tutto qui. Grazie Francesco. In effetti qualche perplessità su questa fretta, io credo che sia legittima. Confermo, scrive Daniele da Sassuolo, che il podcast è una grande invenzione. Anch'io riesco a seguirvi poco in diretta, ma mi ascolto tutte le puntate in differita, e poi gli auguri più sinceri a tutto lo staff di Radio 24. Daniele, grazie, ci resta qualche minuto, subito dopo le ultime informazioni dalle strade. Torniamo con chi, perché qui avrei tanti argomenti possibili. Io direi con Aronica, perché? Ma perché Aronica è uno del, insomma, quando si parla di Napoli si parla principalmente di Amsic, no, di Cavani nell'ordine, Cavani, Amsic, Lavezzi, e poi comunque miscelati un pochino tra loro. Il Napoli è la squadra del giorno, ma è anche la squadra dell'indomani, la squadra del nuovo anno, perché il 6 gennaio in notturna Inter-Napoli, e il pomeriggio, poi credo, ma non è detto, può anche darsi che la sera di domenica 9, Napoli-Juventus, beh, insomma, sono le ultime 2 del girone d'andata, e mi pare che siano i 2 esami finali del Napoli, no? Per capire se se e fino a dove può arrivare davvero e a che cosa può puntare. Aronica invece fa parte del gruppo, insomma del gruppo compatto, no, della zona Mazzarri, e allora sentiamo che cosa ha detto a questo proposito. Sì, è nata la zona Napoli perché comunque siamo riusciti a portare a casa punti e partite importanti sempre sul finire di gara, quindi quello fa parte di una prerogativa della squadra che lotta sempre, che crede fino alla fine su quello che fa e che ha voglia di imporsi, di far bene e di ottenere il massimo, quindi diciamo che è una buona qualità. Ma diciamo nel caso, cioè non è frutto del caso, perché nel calcio c'è poco che si fa al caso, diciamo a volte, ripeto, si lotta fino alla fine perché si sa che comunque è una partita importante e la si vuole vincere a tutti i costi, quindi diciamo che più che altro è sempre frutto del lavoro svolto. E questo era Aronica. Sentirei un ascoltatore che è Giovanni da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, grazie dello spazio innanzitutto e auguri a tutti. Ma io volevo fare... Lei voleva, ma non è detto che possa, perché ho l'impressione che la linea stia cadendo, se non caduta. Giovanni, la sento ancora? No. Allora proveremo semmai a ripescarlo. Nel frattempo, allora, andiamo alla rubrica di Nicola Filippone, che ha trovato un'altra chicca, insomma, in questi giorni in cui il calcio italiano è in lutto, perché lo si è visto bene stamane nella chiesa di Porta Vigentina, di Corso di Porta Vigentina. Il lutto sarà poi ricordato e celebrato formalmente nella prima giornata utile di campionato, e quindi giovedì 6 gennaio, in memoria di Enzo Bearzot. E allora Nicola Filippone ha trovato un precedente sfalsato di soli due giorni, di soli tre giorni, che riguarda proprio il vecchio calciatore rispetto alla data di oggi, del 23 dicembre. Sembra ieri. Il 26 dicembre 1954 Enzo Bearzot segna il suo primo gol in Serie A ed è il gol che permette al suo Torino di battere per 1-0 il Catania, la squadra in cui aveva militato nelle precedenti tre stagioni, contribuendo a portarla in Serie A. È una delle date simbolo della carriera di Bearzot calciatore, come quella del suo esordio nel massimo campionato, 21 novembre 1948. Il giovane Enzo, che stava per scendere sul campo di San Siro con la maglia numero 5 indossata alla rovescia, tanto forte era l'emozione, partecipa al successo dell'Inter sul Livorno per 3-1. E tra i passaggi significativi del percorso da calciatore del futuro CT campione del mondo non si può non citare il 27 novembre del 1955, quando Enzo gioca la sua unica partita con la casacca dell'Italia. È una gara valevole per la Coppa Internazionale a Budapest contro la Grande Ungheria. Bearzot prende parte alla generosa barricata costruita dal tecnico Foni per resistere agli assalti dei magiari, la cui superiorità tecnica è imbarazzante. L'Italia capitola solo all'80esimo, colpita da un certo Puskas. La gara si chiude poi sul 2-0. In pratica è stata anche l'unica volta in cui il Vecchio, in nazionale, ha fatto catenaccio. Beh, che bel ricordo, bravo, bravo Nicola Filippone. Con due osservazioni mie. Una è che questo gol di Puskas lo segnò di testa, mentre insomma, Bearzot in teoria lo marcava, in realtà lo perse per un attimo. Ci fu quella che oggi i telecronisti in vena di neologismi chiamano la spizzata o qualcosa di questo genere, che non ho mai capito, ma davvero spizzò la testa in anticipo su Bearzot, e Puskas segnò a 10 minuti dalla fine, poi arrivò il raddoppio di non so chi. Ma indubbiamente questo sarebbe stato un ricordo che Bearzot avrebbe molto gradito, cioè quello del suo primo gol in Serie A, che Nicola ha scovato in archivio, e destino volle per l'appunto che fosse segnato con la maglia del Torino al Catania, quel Catania che aveva contribuito a portare in A pochi mesi prima. Abbiamo ripescato Giovanni da Pisa, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Certo, adesso forte e chiaro. Allora, dica. Cerco di essere telegrafico nel caso di cadere la linea, ma io volevo parlare sempre di Benitez e del fatto che questa Inter alla fine rischia di riaffacciarsi sul baratro dell'Inter precedente, cioè l'Inter degli esoneri precocissimi e a volte nevrotici, degli scudetti sfumati al 90esimo della 38esima giornata, dei Benitez esonerati di fatto dopo una vittoria di Coppa, tipo Simoni, no? Sì. Dell'Inter che ha le lotte intestine, 1000 dirigenti, mal di pancia dei giocatori, 15 allenatori stagionali. La verità è che se n'è andato l'unico collante, che era Mourinho, e fondamentalmente stimato tantissimo da me che sono tifoso juventino, e mi faccio dire anche goleardicamente bentornata vecchia Inter che per decenni ci hai fatto godere. La saluto. Saluto lei Giovanni. Dunque, ma in che ruolo giocava il Vecchio, domanda un ascoltatore, si firma Fiore. Giocava mediano, era il classico mediano di centrocampo, di mediano tattico, che quindi voleva dire ogni tanto mediano di marcatura, ogni tanto mediano di spinta. Certo, lui piaceva molto avanzare e offendere, non era certamente un mediano che segnava, questo no, questo molto poco, però era un mediano che giocava molto. Luis scrive: scommetto che lo hanno applaudito all'uscita dalla chiesa, proprio come lui non avrebbe voluto. Luis ha vinto, purtroppo ha vinto lei la scommessa, però per essere stato presente, insomma, io darei le attenuanti generiche a quelli che si sono lasciati andare a questo battimani, e le spiego perché. Perché insomma, la cerimonia, che è stata di grande sobrietà, alla fine ha avuto un guizzo, e questo guizzo l'ha avuto Dino Zoff, che si è alzato mentre, durante il rito della comunione, ha raggiunto la signora Luisa, cioè la vedova di Enzo, le ha parlottato all'orecchio per un istante e ha, ci ha spiegato poi, ottenuto il permesso di essere loro, i ragazzi dell'82, a caricarselo in spalla e a portarlo fuori. E credo sia stata, è stato quello, cioè è stato un gesto. Poi Zoff è tornato a sedersi e ha, con uno sguardo, ha diramato 5-6 convocazioni. Ho capito in quell'istante perché 28 anni fa hanno vinto il mondiale, perché sinceramente allora, avendo visto Brasile, avendo visto altre squadre, l'avevo capito fino a un certo punto come fosse nata all'improvviso una squadra così, no? Da Vigo alla trasformazione di Barcellona e Madrid. E stamattina l'ho capito in quell'attimo in cui uno sguardo di Dino a Bruno Conti, a Collovati, ad Altobelli, a Cabrini e a Tardelli li ha fatti alzare, quando alla fine il parroco ha finito con l'ultima benedizione, e questi se lo sono caricati in spalla e l'hanno portato fuori, così come lui avrebbe voluto. E a quel punto qualcuno di quelli che erano in chiesa, secondo me in maniera assolutamente spontanea e non come altre volte può accadere, si sono lasciati trascinare in questo gesto che secondo me non andrebbe fatto, e spero di non essere l'unico a continuare a pensarla così. Ivan dalla provincia di Messina, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Senta, volevo fare una considerazione io. Si parla della morte purtroppo di Berzot, che comunque secondo me si può assecondare in un periodo storico. Cioè, volevo dire, se tra 100 anni, diciamo, il signor Marcello Lippi passerà a miglior vita, no? Allora i giornalisti, le cronache del tempo diranno che negli anni in cui ha vinto lui il campionato del mondo era una squadra leggendaria con tanti campioni, e anche lui era per carattere, diciamo, per professionalità un grande, ecco. Quindi secondo me è un po' il tempo storico e sportivo che dà l'idea dell'uomo leggendario, ecco. Poi lasciando stare anche il tipo di persona che uno può considerare, ecco. La saluto, l'ascolto per radio, e saluto il mio amico Gian Matteo. Arrivederci, grazie. Il suo amico, sono contento per il suo amico Gian Matteo. Dopodiché sì, è chiaro che la patina del tempo contribuisce sempre, no, a dare fascino ai monumenti, però ci vuole un certo spessore, però una manifestazione d'affetto come questa dopo 20 anni di dimenticatoio prima e di esilio volontario poi, insomma, io credo che... Sentiamo cosa hanno detto Bergomi e Graziani, per esempio, stamani dopo il funerale. Ma di grande dolore, di tristezza sicuramente, perché io devo tantissimo a questa persona. Lui ci ha lasciato fisicamente da questo mondo, ma con il pensiero, con i dialoghi, con le parole, noi staremo sempre vicino a lui, sempre, perché è stato non soltanto un allenatore, un selezionatore, ma per noi è stato un secondo papà. E credo che lo stesso concetto riecheggi nelle parole di Paolo Rossi e di Collovati. Era un uomo di una semplicità, era buono, era pur nella sua rudezza molte volte, però dietro c'aveva questa sua bontà d'animo. Era protettivo lui con tutto, con noi perlomeno è sempre stato così. Persone così ne nascono una ogni mille anni probabilmente, per quello che è riuscito a dare a tutti e a noi in particolare. Insomma. Un uomo d'altri tempi, un uomo di grandi valori, di grandi doti umani che ci ha difeso, ma non solo avrebbe difeso noi, avrebbe difeso chiunque contro tutto e tutti, una persona che dal punto di vista, questo dal punto di vista umano, dal punto di vista tecnico è stato secondo me un allenatore sottovalutato, perché già 30 anni fa l'ho detto, era precursore di un calcio moderno e fosse stato riabilitato troppo tardi. Buon Natale da Fabio Cantadori in regia, da Franco Piantanida in redazione e da me con grande affetto.